Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, Attilio Befera, capo, grande capo dell'Agenzia delle Entrate, oggi ha annunciato come funzionerà questo simulatore che tutti potranno utilizzare per capire il ready test, per capire se sono più o meno in linea, se i loro consumi, le loro spese sono in linea con la dichiarazione dei redditi. Ma la cosa è online infatti da questa mattina e tutti possono verificare la compatibilità fra reddito familiare e spese sostenute. In realtà non è l'unica novità, perché a giorni arriverà anche l'anagrafe dei conti correnti, per cui il fisco potrà incrociare i dati e vedere com'era il tuo conto corrente a inizio anno, quanti ne hai, come si muovono, com'è a fine anno, e quindi incrociare i dati. E a questo punto dovrebbe essere non più possibile per l'Agenzia delle Entrate dire non abbiamo gli strumenti. Cioè, ci immaginiamo anche che l'anno prossimo i dati sulla lotta all'evasione saranno ben più alti di quelli attuali. Perché lo dico? Perché oggi Befera ha detto che circa 4.300.000 famiglie hanno spese non coerenti con i loro redditi, vuol dire una famiglia su 5, vuol dire che dichiarano, diciamo, tutta meno di quanto dovrebbero viste le loro spese. Ma soprattutto 1 milione di famiglie spende in maniera rilevante e ricorrente pur denunciando redditi vicini allo zero. Ora, c'è una cosa particolarmente sgradevole in questo, e cioè che chi dichiara redditi vicino allo zero becca tutti i benefici per i meno abbienti, quindi fa, tra virgolette, concorrenza ai meno abbienti, e quindi oltre al danno anche la beffa, perché le politiche poi che vengono chieste al governo per le fasce di reddito più basse, beh, sarebbe veramente una beffa che arrivassero a persone che in realtà hanno un tenore di vita bello alto e semplicemente dichiarano qualcosa vicino allo zero. La domanda però è: come fa Befera a saperlo? Cioè, se già hanno questi dati possono già intervenire? Ne parleremo in apertura. Poi ci sposteremo sulla Francia, perché insomma oggi la Francia si è beccata un declassamento del suo voto, ha perso la AAA, ne ha solo due da Moody's, agenzia di rating. Però l'effetto è nullo, nel senso che non si è mossa la borsa, anzi Parigi guadagna pure mezzo punto percentuale, meglio di Francoforte che fa più 0,40, meglio di Londra che fa più 0,09 e meglio di Milano che fa meno 0,30%. Per cui l'effetto declassamento del debito francese è stato nullo, forse ha fatto più male la copertina dell'Economist della settimana scorsa, che diceva la Francia è una bomba orologeria, è il vero rischio per l'euro, che non questo declassamento. Detto ciò, Milano perde particolarmente Fiat il 5% ed Exor il 3,70, realizzi sui bancari o vendite, Popolare di Milano meno 3, Popolare Emilia Romagna meno 2,70, come Mediobanca, Ubibank meno 1,80, Autogrill meno 1,7, come Intesa San Paolo, Banca Monte dei Paschi meno 1,5, Unicredit perde 1,2. Chi guadagna? Fiat Industrial più 2,30, Azimut più 2,20, A2A più 2%, Tenaris più 1%. Parleremo anche di Francia oltre che di borsa, chiaramente. Poi concluderemo con un'intervista con Azzurra Caltagirone, che è tante cose nella vita, molti la conoscono perché è la figlia dell'industriale editore del Messaggero e non solo Caltagirone, è anche la moglie di Pier Ferdinando Casini, ma è anche vicepresidente del gruppo Caltagirone e vicepresidente della Federazione Nazionale della Stampa. Oggi a Milano per presentare la nuova edizione del Messaggero, di proprietà appunto della famiglia Caltagirone. In realtà con lei ragioneremo e abbiamo ragionato di crisi dell'editoria, lo vedete cosa succede in borsa con i titoli legati al mondo dell'editoria, raccolta pubblicitaria, ma anche investimenti del gruppo e poi, perché no, la legge in discussione alle Camere sulla diffamazione e il rapporto tra giornalismo e potere, giornalismo e politica. Ascolteremo l'intervista dopo le 18, le 18.07. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve. Si va verso una causa contro Credit Suisse da parte del procuratore generale di New York Eric Scheidermann. È accusata la banca svizzera di avere ingannato gli investitori causando oltre 11 miliardi di dollari di perdite con titoli legati ai mutui. In particolare è accusata Credit Suisse di avere ingannato gli investitori nelle pratiche di due diligence sui mutui immobiliari che venivano confezionati in obbligazione, cioè di non aver raccontato che cosa c'era dentro questa simpatica polpetta avvelenata che avevi impacchettato. L'attuale periodo di calma sui mercati finanziari potrebbe non durare perché è in parte basato sul presupposto che la Banca Centrale Europea intervenga contro la crisi del debito con gli acquisti dei titoli di Stato. Lo ha detto il consigliere esecutivo della BCE, della Banca Centrale Europea, Benoît Cœuré. Non dobbiamo illuderci. Allora, io non avevo voglia di risvegliare il gufo, ma mi scusi, chiedo al consigliere esecutivo della Banca Centrale Europea, ma che senso ha dire la calma sui mercati potrebbe, a meno avessi detto non durerà, potrebbe non durare, perché è basato sul presupposto che la Banca Centrale Europea compri debito di questi paesi, e perché non sarà così, non ci avete detto che c'è il meccanismo anti-spread? Non dobbiamo illuderci, ma mi sembra una gufata di un classico, proprio un gufo doc. Nel frattempo, situazione più seria invece, dichiarazioni anche più serie da parte dei francesi. Il premier Jean-Marc Ayrault dice la situazione della Francia è grave, faremo di tutto per risanare i conti pubblici e portare il deficit sotto al 3%, obiettivo che verrà rispettato. Moscovici, che è il ministro dell'economia, Pier Moscovici, ha detto nonostante l'abbassamento di voto deciso da Moody's, il nostro debito resta tra i migliori al mondo, non c'è nessuna perdita della fiducia nei rapporti tra Francia e Germania. E infatti subito il ministro, il falco delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha detto la credibilità del credito francese è un po' diminuita, ma la Francia ha ancora un rating molto stabile, per cui si deve evitare ogni drammatizzazione. Alcuni di voi mi chiedono chi ancora ha la tripla A, cioè il massimo del voto sul debito in Europa: Danimarca, Finlandia, Olanda, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e chiaramente Germania. Va bene l'asta, è andata bene l'asta dei titoli spagnoli, quindi la Spagna è riuscita a collocare il suo debito sul mercato con un'asta di titoli a 12-18 mesi. Ha venduto più di quanto immaginasse, voleva collocare 4 miliardi e mezzo, ne ha collocati 4 miliardi e 9. Tassi in lieve calo dal 2,82% al 2,79% sui 12 mesi, sui 18 mesi dal 3,03 al 3,02. Dall'Europa invece arriva notizia che potrebbe essere già stasera firmato l'accordo per la Grecia, sugli aiuti alla Grecia. Però poi ha gelato un po' l'attesa Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, ha detto ci sono buone chance, ma non c'è, ma dire che è fatto è ottimistico. Il ministro austriaco dice Maria Fechter no a nuovi fondi per Atene, nel senso che Atene ha chiesto di avere più tempo per ridare i soldi che ha avuto in prestito, riscadenziare il suo debito. Questo di fatto vuol dire 20 miliardi in più. E Christine Lagarde, arrivando oggi al vertice dell'Eurogruppo, ha detto, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha detto il debito della Grecia deve essere sostenibile, lavoriamo per trovare, in modo costruttivo per trovare una soluzione, mentre il nostro primo ministro Mario Monti, che è ancora a Dubai, e ancora nella visita ufficiale di cui parlavamo ieri, ha detto siamo riusciti ad evitare un disastro totale e con la produttività adesso bisogna concludere l'accordo con le parti sociali. Sulla produttività ne abbiamo parlato a lungo ieri, accordo raggiunto con tutti i sindacati ma non con la CGIL. Allora, la nostra Anna Marino ha raggiunto Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, che ribadisce il no all'accordo e critica la UIL che ha firmato e è in linea con i paletti messi dalla CGIL all'accordo sulla produttività. Noi siamo d'accordo con la posizione che ha assunto la nostra confederazione, la CGIL. Pensiamo che quel testo così com'è non può essere firmato e che è necessario produrre dei cambiamenti, in particolare sul problema che riguarda la difesa del contratto nazionale di lavoro, a partire dalla difesa del potere d'acquisto dei minimi contrattuali, a partire dal fatto che la contrattazione non può derogare le leggi del nostro paese, sarebbe un modo per far applicare l'articolo 8 voluto da Sacconi su richiesta della FIOM, che come noto la CGIL considera incostituzionale, ci sono già diversi rinvii alla Corte Costituzionale, per quello che ci riguarda come FIOM stiamo raccogliendo le firme anche per abrogare l'articolo 8, e poi c'è un problema che riguarda la democrazia, la rappresentanza, in quanto siamo in presenza di un'esplicita violazione dell'accordo del 28 di giugno nella categoria dei metalmeccanici. La scelta di Federmeccanica e di Fimewin di escludere la FIOM dal tavolo è un atto illegittimo ed è un atto in violazione esplicita della accordo del 28 giugno. Di diverso avviso invece, come era immaginabile, è Luigi Angeletti, segretario della UIL, sempre al microfono della nostra Anna Marino, ha detto attenzione, abbiamo sottoscritto l'accordo e ha spiegato perché, a una condizione, parla anche del paletto posto da Susanna Camusso, sentiamo. Quella che si dice la nostra condizione è la condizione che è scritta dall'accordo, quindi condivisa da tutte le parti sociali. D'altronde stiamo facendo una riforma del modello contrattuale per aumentare la produttività. E aumentare la produttività non è una questione che si risolve in un anno. Quindi la riforma strutturale comporta una detassazione anch'essa strutturale, altrimenti non diamo certezza a nessuno. Per quanto riguarda la frenata della CGIL e il possibile rientro della FIOM? No, il rientro della FIOM è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché quello che si sta discutendo è il rinnovo del contratto del 2009. La FIOM non solo non ha firmato, ma addirittura cercato di contestare giuridicamente nei tribunali. La FIOM può rientrare a un tavolo di trattativa avendo un comportamento normale, riconoscendo il contratto che oggi è in vigore nell'industria metalmeccanica. Non può entrare in una trattativa con l'unico obiettivo di boicottarla, di non farlo fare. Lei è sorpreso? No, non sono sorpreso, perché per la CGIL il problema del merito è sempre stato secondario. E di passo in avanti positivo parla anche il segretario generale della FIM CISL Giuseppe Farina, in netto disaccordo con i paletti posti della CGIL, in particolare quello che poi riporterebbe la FIOM al tavolo del contratto di categoria, e quindi in linea con la UIL, sempre al microfono la nostra Anna Marino. Le ragioni con la quale la CGIL in quale argomenta la sua contrarietà all'accordo sono davvero incomprensibili. Per quanto riguarda la FIOM? Ma la FIOM è stato improprio che abbia posto la questione FIOM in un tavolo di trattativa che riguarda l'insieme del mondo del lavoro, e con una pretesa ingiustificata, perché se la FIOM è fuori dal tavolo della Federmeccanica non se la deve prendere con nessun altro se non con le scelte che ha fatto. Sembra invece che ci sia comunque un'apertura da parte della CGIL. Io mi auguro ovviamente che anche la CGIL condivida l'accordo che è stato fatto, che è un accordo positivo, che libera risorse importanti per il salario dei lavoratori, perché questo significa già da gennaio, se il governo mantiene ovviamente l'impegno, che nelle buste paga dei lavoratori metalmeccanici ci sarà un miglioramento salariale. Per quanto riguarda la condizione posta dalla UIL, voi la condividete? Assolutamente sì, ovviamente l'accordo è dentro un quadro di impegni di tutti, anche del governo, a rendere più forte il sistema di detassazione del salario di produttività e quindi favorire da questo punto di vista sia le imprese che anche i lavoratori. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Oggi parecchie notizie scattano una fotografia alla faccia di chi diceva che la crisi non c'era e alla faccia di chi la crisi non la sente, perché insomma, ha altre forme di introito. La prima la scatta l'INPS, dice che il potere d'acquisto delle famiglie italiane è diminuito tra il 2008 e il 2011 del 3,8%, cioè meno 4%. Tra l'altro è stata rispetto al 2007, però la perdita è ancora più alta, il 5,2%, e dice l'INPS la situazione sarebbe potuta essere molto più grave senza l'intervento compensativo delle prestazioni sociali, cassa integrazione ma non solo. Il 5% non è poco, soprattutto quando una famiglia viaggia già su limiti, no? Nel potere d'acquisto. E ancora i dipendenti privati, sempre l'INPS la fonte, in Italia sono diminuiti dello 0,6%, ma la riduzione vera, e qui torniamo a un altro tema, la crisi si sta scaricando soprattutto sui più deboli. Governo Monti, prendine atto, donne e giovani, lo dice anche l'INPS, chi ha meno di 30 anni ha visto ridursi il posto di lavoro dell'11%, meno 11%, mentre la media fa meno 0,6 nei dipendenti privati, 280.000 occupati in meno in quella fascia, chi ha meno di 30 anni, sono passati da 2.468.000 a 2.188.000. Se poi si va a vedere i giovani fino a 19 anni, cioè chi ha lasciato la scuola a 16 anni o giù di lì, il calo è stato del 45%, cioè lavoravano 110.000 giovani che avevano meno di 19 anni, adesso ne lavorano 60.000 e infine il 7.200.000 pensionati vivono in questo paese con meno di 1.000 euro al mese, meno di 1.000 euro al mese. Nel frattempo la diocesi di Milano, nel rapporto sulla povertà della Caritas ambrosiana, dice che in 10 anni sono aumentati 4 volte i poveri cronici, 400% in più. Ora la Caritas di Milano si estende fino a Varese, Monza e Lecco e opera in una delle terre più ricche, delle aree più ricche di questo paese. Il 73% è composto da stranieri e l'altro chiaramente sono italiani, 2/3 sono donne. Nel 2011 più 6% le persone che sono rivolte alla Caritas, con un aumento significativo dei poveri cosiddetti cronici, cioè quelli che per almeno 2 anni consecutivi si rivolgono alle mense e ai servizi della Caritas. Che qualcosa, e chiudo, non abbia funzionato in questi anni di turbofinanza, turbocapitalismo, un bellissimo libro di Krugman, forse no, secondo me non è Krugman, adesso andremo a riprenderlo, che qualcosa non abbia funzionato e che si sia creata una divaricazione ancora più alta tra chi ha tanto e chi ha sempre meno, non lo diciamo noi ma lo dice Save the Children, che è la più importante organizzazione al mondo, una delle più prestigiose per lottare contro la povertà dei bambini e che opera appunto sull'infanzia. Allora, il gap, la differenza tra bambini poveri e quelli ricchi a livello mondiale è cresciuta dal 1990 del 35%, che è il doppio di quello che è avvenuto per gli adulti. Con la conseguenza, questa è una cosa incredibile, perché poi ci dicono sempre che la globalizzazione sta facendo bene, però insomma, Save the Children ti racconta che in 5 anni la mortalità infantile, scusatemi, che la mortalità infantile per i bambini sotto i 5 anni poveri è doppia rispetto a quella dei bambini più ricchi. Ecco perché si può, a mio avviso, parlare tranquillamente di politiche redistributive. Come si fanno le politiche redistributive? Con le risorse, tagliando gli sprechi, quindi tagliando i costi anche della pubblica amministrazione, delle strutture burocratiche, delle province, delle regioni e della politica a livello nazionale, e facendo pagare meno tasse a chi le paga e facendo pagare finalmente le tasse a chi in questo paese le ha pagate molto molto poco e spesso ha anche portato i soldini in Svizzera, come raccontavamo ieri per l'accordo con la Svizzera. Ossia, l'equità la crei con un fisco meno vessatorio su chi conosce, è però più capace anche di beccare per esempio il milione di famiglie che Befera oggi ha detto vivono, hanno un reddito pari a zero ma consumi da gente ricca. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora parliamo di come il fisco potrebbe finalmente riuscire, come in tutti i paesi, a beccare gli evasori. Circa 4.300.000 famiglie, una su 5, a spese non coerenti con i redditi. Un milione di famiglie italiane spendono in maniera rilevante e ricorrente, pur denunciando redditi vicino allo zero. E dice, attenzione, ha detto oggi il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, quando l'incoerenza, cioè quando è superiore al 20%, scatterà il nostro controllo, anche se all'inizio saremo più cauti. Il redditest. Che cos'è? Facciamolo dire lo stesso Befera al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Il redditest è uno strumento di compliance, cioè uno strumento che aiuta a capire la propria posizione. Il redditometro, l'accertamento sintetico in termini tecnici, partirà nel 2013 e anche lì saremo molto cauti a farlo partire, molto soft, andremo soltanto sulle grandi differenze. Il nuovo redditometro, inteso come strumento di accertamento, è già pronto, siamo in fase di approvazione del relativo decreto ministeriale e quindi sarà pronto sicuramente a gennaio, sarà utilizzabile. Ripeto, noi lo useremo con la massima cautela e soltanto per differenze eclatanti. È chiaro che è uno strumento che si autoalimenta, cioè via via che vengono segnalate dallo spesometro, dalle nostre basi dati, le spese vengono immesse nel sistema. E quindi è un strumento che va perfezionandosi nel tempo. No, attenzione, non è che gli evasori faranno il ready test. Quello che l'Agenzia delle Entrate, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, quello che l'Agenzia delle Entrate ha detto è: qui c'è un simulatore, se ho ben capito, in cui voi potete vedere come faremo noi i controlli su di voi, tra virgolette. Per cui voi fate la simulazione, se vedete che lo scostamento tra quanto dichiarate e quanto viene fuori è superiore al 20%, sappiate che noi a quel punto accenderemo un campanello di allarme su di voi, e quindi il messaggio è: fatti il tuo test e prendi le... No, a me ricordava un po' quello della gravidanza, non so perché, ma insomma, fatti il tuo test, se scopri che sei evasore, come se uno non lo sapesse da solo. Allora, mettiti in regola, almeno mettiti in regola per arrivare a meno del 20% di differenza con quello che secondo noi dovresti dichiarare. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ho detto cose inesatte, cioè più o meno... No, più o meno, mi più guardavi meno molto perplesso. No, guarda, ti guardavo perplesso perché mi lascia perplesso lo strumento in sé, insomma, questo l'autodenuncia. Autodenunciatevi, è una italiani, sorta e italiane. Di auto autodenunciatevi. Autodiagnosi che non sì. serve a nulla, non è un'autodenuncia nel senso che no, scarichi il software, dovrebbe restare, cioè resterà, così ci hanno assicurato l'amministrazione finanziaria, tra le tue mura. L'amministrazione non conoscerà il risultato del redditest. In pratica ti dicono: ci sono certe tipologie di spesa, sono 7 quelle che sono state individuate. Se già con queste ti scatta il semaforo rosso, insomma, attenzione quando poi farai la dichiarazione. Attenzione, perché quelli sono gli... No, comunque, adesso fate la battuta, può essere uno strumento utile perché quello che ha la coscienza sporca dice: senti, ma insomma, lì poi vorrei capire, perché ci possono essere anche spese straordinarie, ma ha scritto prima un ascoltatore, dice: ma scusi, ma se io chiudo in negativo la mia attività, in perdita, non è che non mangio quell'anno, allora avrei delle spese incoerenti col fatto che ho chiuso in perdita. Questo è un primo rilievo. Il secondo rilievo è dove si scarica e come si scarica. In questo caso si scarica l'applicazione, non si scarica niente dal punto di vista fiscale. Soltanto l'applicazione dal sito dell'Agenzia delle Entrate, si ha questo software sul proprio computer, a patto che si abbia anche il relativo programma, e si fa questo check-up fiscale che vale quello che vale, nel senso che appunto non scatteranno immediatamente i controlli, su questo bisogna essere chiari per evitare informazioni di tipo terroristico nei confronti dei contribuenti, anche se forse è quello che l'Agenzia delle Entrate vuole in questo momento. L'aspetto psicologico. Quindi dove si scarica in primo luogo? Dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Qui già stanno scrivendo, figurati se non resta poi nel computer. Oh ragazzi, non dovrebbe, se non lo so, mi fido della gente. Befera lo ha raccontato, lo ha giurato e si possono, tra l'altro ci sono anche delle belle FAQ con tutte le domande più comuni. Delle belle che? Delle FAQ, delle risposte, diciamo, a quelle FAQ è la risposta o la domanda? No, sono domande e risposte. Per esempio, non so se il figlio vive con la moglie, se lavorano tutti e due, se è una famiglia di fatto. Per esempio, il redditometro riconosce le famiglie di fatto, questo è già un bel passo avanti. Ma leggendole ci sono belle notizie, insomma, perché si va dalle spese della famiglia, le spese per l'abitazione, ma riguarda sia i consumi, sia l'acquisto, non so, di una lavastoviglie piuttosto che di un frigorifero nuovo. Ci sono poi le spese per il trasporto, e qui appunto c'è una buona notizia per gli italiani, perché sono escluse le spese per i deltaplani non a motore. ...17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi sul Redditest, e adesso vi arriviamo, molte anche battute sul FAQ. Allora ragazzi, fate una battuta, sappiamo tutti che FAQ vuol dire Frequently Asked Questions, se non ricordo male. Però insomma, a me non piacciono gli inglesismi, ho chiesto se FAQ era una la domanda o la risposta, visto il Redditest. Chiudiamola qua e andiamo invece avanti. Molti ascoltatori segnalano al 349-238-6666, ma insomma io potrei essere uno che non ha avuto reddito, magari anche per problemi economici, quell'anno mi sono fatto prestare i soldi dai genitori o da amici o dalla moglie, avere avuto delle spese anche con un reddito molto basso, quasi inesistente. E lì il Redditest come la mettiamo? Il Redditest, in quel caso, se uno dovesse farlo, darà segnale rosso, semaforo rosso. Però bisogna fare una distinzione: il Redditest è questa autodiagnosi che uno fa e resta lì. Altro discorso è il redditometro vero e proprio, quello che dal prossimo anno consentirà gli accertamenti a partire dai redditi del 2009, e quello è un altro paio di maniche. Ecco, in quel caso le voci di spesa saranno 100, saranno articolate in base al nucleo familiare, in base all'area in cui si risiede. E in queste situazioni, per esempio, che succede? Che c'è una prima fase di incontro obbligatorio, cioè qualora l'Agenzia delle Entrate si rendesse conto che c'è un'incoerenza tra quanto dichiarato e quanto speso, ha l'obbligo di chiamarti prima di fare l'accertamento e il controllo. E in quel caso uno potrebbe spiegare. Allora il consiglio che stanno dando i nostri esperti, ma anche i tecnici dell'amministrazione finanziaria, è quella di avere traccia di queste donazioni, di questi prestiti, cioè tramite un bonifico, tramite altre forme di pagamento, per cui è possibile risalire alla fonte di questi soldi in più, per evitare di essere accusati di essere un evasore. Direi che un'ulteriore complicazione alla vita degli italiani è necessaria in un paese con una così elevata evasione fiscale? Probabilmente sì. Poi si può pensare, come io personalmente penso, che siano complicazioni inutili. Arriviamo lì. No, una cosa la devo dire, però molti ascoltatori scrivono: ah, in questo modo allora si assumerà il nero, si comprerà in nero, si venderà in nero, i capitali scapperanno. Sì, però attenzione, perché queste mi sembrano anche scuse. Cioè non è che, siccome l'Agenzia delle Entrate, come dovrebbe aver già fatto e come fanno negli altri paesi, fa una lotta all'evasione seria, non vessatoria, non con l'artigiano che non sta dentro gli studi di settore, porca una miseria, ma sui capitali veri, sui redditi che non stanno in cielo e in terra, su quello che gira con la macchina di superlusso e dichiara 20.000 euro, poi andiamo avanti se volete. Beh, nel momento in cui l'agenzia delle entrate si mette a fare questa battaglia, non si può dire, ah, in questo modo metterà il nero, che sarebbe come dire, se mettiamo la polizia per le strade, allora gli etilometri sulle strade, allora inizieremo a bere di più in casa. Ma che vuol dire? Abbiate pazienza, la lotta all'evasione si fa e basta, l'importante è che non diventi vessatoria e che non ci sia questo atteggiamento delle volte che l'agenzia delle entrate ha avuto, forte con i deboli e debole con i forti, cioè quando l'artigiano che è fuori dai studi di settore, dico artigiano per dire, gli fai una cosa tanta e poi però ti sfuggono decine di milioni di capitali, centinaia di milioni di capitali all'estero. Perché non ti convince il Ready Test, Bellinazzo? Beh, non è che non mi convince, che è uno strumento appunto semplicemente indicativo che non dà nessun tipo di certezza, perché qualora desse semaforo verde, diciamo non hai una sorta di scudo da possibili controlli, perché potresti averlo fatto male, e data la complicazione delle voci è possibile che molti lo facciano male, perché ci vuole l'assistenza del commercialista su molti aspetti per risolvere i quesiti, certo, che ti pone il redditometro. E viceversa, se ti dà semaforo rosso non vuol dire che tu sia per forza un evasore, perché puoi avere dei redditi, certo, per esempio da capitale, che non sono dichiarati. Ultima domanda: che cosa capiterà tra qualche giorno con l'anagrafe dei conti correnti? Beh, questo è il vero passaggio da una lotta all'evasione, come dire, basata su controlli spot a un controllo invece più fondamentali, ed è quella il fatto che d'ora in poi gli intermediari finanziari dovranno trasmettere non solo, diciamo, il numero di conti correnti che una persona ha o di rapporti finanziari, ma anche tutte le movimentazioni, il saldo ad inizio anno e a fine anno, questo sul conto corrente, ma anche su tanti altri rapporti finanziari, per arrivare, per dire, alle cassette di sicurezza. Se non ha una cassetta di sicurezza, l'intermediario finanziario dovrà comunicare al fisco quante volte in un anno tu sei andata ad aprirlo, perché si presume che se sei andato troppo spesso potresti aver, come dire, giocato su contanti nascosti, sul nero. Ecco, questo rischia poi di far passare una legittima lotta all'evasione a una sorta di stato di polizia tributaria, con cui i politici spesso attaccano Equitalia. Lo fanno, diciamo, per convenienze in molti casi, ma potrebbero esserci anche delle ragioni di fondo, insomma non si deve esagerare. Sì, ecco, che non diventi che se io vado 20 volte a ritirare dei soldi perché per fatti miei voglio usare i contanti, o decidiamo che i contanti sopra i 300 euro non si usano più, usiamo solo le carte di credito, però con le banche che non ci guadagnano sopra, e anzi, o se no non puoi nemmeno crocifiggere. Dammi solo una risposta telegrafica a questo punto: con sto cavolo di redditometro, il Ready Test per farmi l'autoanalisi l'anagrafe dei conti correnti, avrà o non avrà Attilio Befera tutti gli strumenti per fare la lotta all'evasione? Avrà tutti gli strumenti, e se l'anno prossimo ci verranno a raccontare che un grande risultato aver recuperato 14 miliardi su 120, 140, 130, esatto, 140, 150 miliardi di evasione, insomma non ci vengono a raccontare, è un grande risultato, perché a questo punto gli strumenti per accertare il nero e il sommerso ci sono tutti, insomma l'armamentario è completo. Sì. Speriamo, come dicevi tu, che questo non si traduca in azioni vessatorie nei confronti di chi è in difficoltà, ma che permetta di... Sì, leggo una cosa e poi chiedo scusa all'informazione sul traffico, perché la chiude tutta. Fermo restando che il fisco non deve essere vessatorio, soprattutto con le categorie più deboli, soprattutto con chi sente molto anche questa crisi, e piantiamola di prendersela sempre con gente che no, non sta dentro gli studi di settore. Però, scrive un'ascoltatrice, posti limitati all'asilo, il figlio del mio datore di lavoro, gioielliere, due case, SUV, Golf, è rientrato nei posti assegnati alle categorie meno abbienti, il mio no, perché la madre è disoccupata, per la legge può starsene a casa ad accudirlo, e questo mi tocca vedere tutti i giorni che il figlio del gioielliere viene accompagnato lì con una macchina di lusso che non cito. Ecco, questa è la disuguaglianza dal punto di vista fiscale, che poi il gioielliere, che dichiarano in media in Italia, vado a memoria, 18.000 euro lordi di imponibile, 18.000 euro lordi di imponibile, ottengono i posti all'asilo, alla scuola elementare, dati giustamente in uno stato di welfare per chi ha meno soldi, e chi invece guadagna 25-30 mila euro lordi magari è escluso, e sapete tutti che con 30 mila euro lordi veri non si campa tanto bene. Grazie Marco Bellinazzo. La borsa rapidissimi, oggi la faccio io la borsa con Paolo Palonetto di Radio Colle sulle 24 ore. Una battuta però, attenzione, l'accordo con la Svizzera, l'abbiamo chiarito ieri, di solito gli accordi prima si fanno e poi si annunciano, la Germania ha fatto così, la Gran Bretagna ha fatto così, qui è un anno e mezzo che lo annunciamo e tempo che lo faremo probabilmente non ci sarà più niente in Svizzera dei soldi legalmente porti lì, perché continuano ad arrivarci segnalazioni di banche svizzere che spiegano ai correntisti italiani come trasferire quei capitali a Hong Kong, nelle loro filiali di Hong Kong e gli altri posti. Mi sembra un po' continuare a dirlo, dire agli evasori, avete tempo per portare i capitali fuori. Comunque la borsa, dai. Paolo Paronetto, dicevo, giornata piatta in Europa, cali, devo dire, cali pochi, più 0,70 sia Parigi che Francoforte, meno 0,20 Milano. Concentriamoci su Fiat e sulle banche dopo Moody's. Sì, esattamente, diciamo che a livello generale appunto i listini hanno abbastanza snobbato Moody's sulla Francia, l'attesa per l'Eurogruppo, la riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia. A Milano è andata male Fiat che ha perso il 4,99%, qui a pesare è in primo luogo un giudizio di UBS, la banca svizzera, che ha tagliato la raccomandazione sul titolo, che non è più da comprare secondo UBS, ha tagliato di molto anche il target price a 3,5 euro da 5,7. Soprattutto la preoccupazione è quella che, nonostante gli sforzi di Fiat e la strategia di esportare negli Stati Uniti auto prodotte in Italia, il gruppo potrebbe essere costretto a chiudere uno stabilimento in Italia, quindi insomma rilancia queste preoccupazioni sul titolo, che hanno trascinato al ribasso anche la controllante Exor, meno 3,8%. Giustamente citavi Exor, appunto Fiat e Exor sono i due peggiori titoli tra quelle maggiore capitalizzazione, le banche e in particolar modo la Pop Milano, meno 3%. Sì, le banche scontano soprattutto un altro giudizio di Moody's, questo proprio sul sistema bancario italiano. L'agenzia conferma che secondo le sue valutazioni l'auto, quindi le prospettive per il settore italiano sono negative, soprattutto per il deterioramento della qualità degli asset. Per quanto riguarda BPM, appunto ieri l'agenzia ha anche messo sotto osservazione il rating per un possibile downgrade, quindi è stato il peggior titolo bancario. Da notare che BPM ha annunciato azioni contro Moody's, perché se dice che questa giudizio è arrivato senza mai nessun incontro con il nuovo management della società cambiato lo scorso anno. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo la pagina di borsa con i migliori e peggiori della giornata, per chi si fosse appena messo in collegamento. Borse oggi calme, meno 0,25 Milano, più 0,60 sia Francoforte che Parigi, nonostante l'abbassamento del voto di Moody's sulla Francia, non ha avuto effetti, più 0,18 Londra, l'America è invariata, migliori peggiori in assoluto, dicevo, Banca Carige risparmio sulle risparmio, meno 8,22, Ion Renewables meno 12,6, fronte opposto Unione Alberghi Italiani più 20%, primi sui motori più 8,78, Camfin, di cui avevamo già accennato, nell'ipotesi che forse venga lanciato un'opera per accorciare la catena di controllo di Pirelli, più 8,33%. Adesso cambiamo tema, ci siamo occupati in questi mesi, in questo anno, ogni tanto di editoria, non solo perché riguardi noi, ma perché è comunque un settore economico di questo paese. L'editoria non vive un buono stato di salute, i conti di molti gruppi non sono rosei, e vale anche per le Sole 24 Ore, per Rizzoli, quant'altro, Mediaset in borsa. L'abbiamo fatto nel passato, ricorderete, col presidente dell'RCS, Scott Iovine, ma anche con Rodolfo De Benedetti, che guida il gruppo Espresso. E continuiamo il nostro viaggio nel mondo dell'editoria. E allora ne parliamo con chi è vicepresidente della Federazione Italiana Editori di Giornali e anche vicepresidente di uno dei gruppi editoriali più importanti di questo paese, il gruppo Caltagirone, Azzurra Caltagirone, buongiorno e grazie innanzitutto. Buongiorno. E voi siete qui, voi come gruppo e lei in particolare, anche per presentare a Milano la nuova versione, il nuovo formato, il restyling del Messaggero. Noi chiaramente non tanto perché cane non mangi cane, ma perché siamo contenti quando altri gruppi fanno investimenti, rilanciano il prodotto. Vorremmo capire quali sono stati i criteri che vi hanno guidato, magari poi li spiamo e li raccontiamo anche su Al Terzo Piano. Allora, diciamo che il Messaggero è un giornale antico che ha raccontato l'Italia per 134 anni e lo ha fatto sempre in modo contemporaneo. Ricordo una battaglia su tutte, forse una delle più importanti del Messaggero, che fu quella sull'aborto. In un paese in cui la gran parte dei giornali si schierarono per cancellare questa legge, quindi per levare un diritto fondamentale delle donne, il Messaggero uscì con una pagina storica, con un no, reclamando il diritto di scelta delle donne. E quindi la scelta alla base di questo nuovo giornale è quella di essere contemporanei, come lo siamo sempre stati e come lo vogliamo essere. La cosa, diciamo, più palese è la veste grafica, che oggi è decisamente diversa, è molto più vicina a un iPad che a un giornale tradizionale, ma dietro questo c'è un lavoro di una squadra e c'è anche una volontà di fare in modo diverso informazione, con sempre le linee guida che hanno caratterizzato il Messaggero, quindi l'equilibrio e la passione e la dedizione. Sicuramente è un modo per anche, diciamo, per fare un salto avanti su questa nostra professione, anzi mi ci metto indebitamente perché io non sono una giornalista, però è anche stato un momento per ripensare a come doveva essere l'informazione e quindi le persone che operano l'informazione, tutte a 360 gradi, ma ovviamente primariamente nei giornalisti, su cosa è e cosa deve essere e come deve essere fatta. Spesso noi tendiamo a ripetere degli schemi. Questo, alla base di tutto il ragionamento c'è stata la domanda, cioè di cosa ha bisogno oggi un lettore? Sicuramente ha bisogno di essere orientato, perché la quantità di informazione è enorme, ha bisogno di una selezione rigorosa e ha bisogno di una divisione fra fatti e opinioni, cosa che spesso i giornali nelle articolesse lunghissime mischiano. E diciamo, queste sono state le linee guida. Siamo, diciamo, all'inizio di questo nuovo processo di rinnovamento, e poi c'è sicuramente il tema della convergenza della carta internet e poi il grande tema che è quello di coniugare la velocità con la qualità dell'informazione. Ecco, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi, ha detto però, attenzione, ci sono 90 giornali vicini al fallimento. Allora, lei prima ricordava, dobbiamo stare ancora più vicini al lettore. In realtà qui faccio autocritica anch'io. Noi notiamo che ormai da anni, decenni, le copie vendute in realtà sono ferme. Forse qualcosa si è avuto con internet, ma diciamo, la carta stampata su questo non è mai riuscita a dividersi una torta che è rimasta più o meno invariata. E al di là di questo la sensazione è che la concorrenza che arrivi da internet, dalle informazioni sostanzialmente che usano nuovi canali, sia una concorrenza che rischia di schiacciare poi l'informazione alta e seriosa. Allora, secondo lei, gli errori più frequenti che abbiamo compiuto, e quando lei parla di convergenza con tutto il mondo, che per esempio riguarda l'iPad o i tablets, pensa che alla fine si andrà come per Newsweek, come per il Wall Street Journal, come per tanti altri quotidiani, cioè scomparirà la versione cartacea? Allora, intanto l'informazione seria e non seriosa, scusi, però è doveroso. Sicuramente io capisco l'appello accorato di Siddi. Quando io parlo di una riflessione sul tipo di professione che si fa e su coniugare la qualità, quindi una persona dedicata ad approfondire un tema, con la velocità, che è ciò che richiede oggi. Questo è il grande tema. Per il resto io non parlerei di supporti su cui viaggia l'informazione. Penso che in un futuro sia un discorso marginale. quello che conterà è la qualità di informazione e il marchio con cui viene veicolata. È un marchio su cui vengono riconosciute determinate caratteristiche che possono essere autorevolezza oppure una segmentazione in un mercato, quindi un marchio dedicato a un determinato tipo di informazione piuttosto che a un approfondimento, piuttosto che alla rapidità. Non dobbiamo, finché continuiamo a guardare il supporto senza guardare i contenuti, secondo me il settore dell'informazione può solo perdere terreno. E dov'è che abbiamo sbagliato sui contenuti allora? Abbiamo continuato, innanzitutto c'è un problema secondo me enorme generazionale, nel senso che i giornali per anni hanno parlato dei giovani senza avere i giovani in redazione e parlando dei giovani come se fossero un mondo particolare. In realtà... dei panda? Sì, sì. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, spesso diciamo c'è tutto un discorso di preparazione alla professione che spesso non ha formato persone in grado di capire le necessità dei lettori. Abbiamo continuato a mutuare lo stesso tipo di prodotto ampliando le pagine. Questo è quello che ha fatto la stampa, senza cambiare il modo di comunicare. E prescindendo dal fatto che mentre 20 anni fa il quotidiano era la primaria fonte di informazione, oggi arriva seconda, terza, quarta o quinta, visto come evolve la società. Noi spesso, alcuni giornali spesso vogliono raccontare un fatto che è accaduto la mattina del giorno prima, dopo un fatto evidentemente eclatante, dopo che giustamente il lettore o il fruitore dell'informazione ha già avuto N contatti con internet, N contatti, certo, con altri strumenti. E piuttosto che dare un approfondimento, un focus o spiegare o dare quell'argomento in più o aiutarlo a capire, riportano una cronaca. Quindi questo secondo me è stato ciò che ha allontanato. Ma siamo troppi noi giornalisti? Dipende dal punto di vista, non si è mai troppi e non si è mai pochi, dipende. Cioè, più un problema, perché così arriviamo anche al conto economico, del numero di giornalisti, quindi potremmo dire della produttività dei giornalisti, se usassimo un termine in voga, o della testa dei giornalisti? Un problema di qualità. Il problema è un problema semplicemente di qualità. L'informazione che vincerà sarà l'informazione di qualità. Chi sarà in grado a livello imprenditoriale di dare un'informazione di qualità, a prescindere dal numero di giornalisti, secondo me ci sarà ancora fra di 5, 10, 15, 20 anni, non so su quale supporto prevalentemente. Ci sarà sicuramente una parte di carta che sarà dedicata a determinate cose e poi su tutte le altre piattaforme, ma è un problema di qualità. Questa è la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con Azzurra Caltagirone. Dopo il traffico, la seconda parte, che riguarderà anche i rapporti tra giornalismo e potere, non solo la politica. Azzurra Caltagirone, infatti, come è noto, è la moglie di Pier Ferdinando Casini. Si può scrivere e dire quello che vuole. Una cosa però, per favore, ma perché parlate di marchette? Non l'avete mica scritto, però, dico ad alcuni ascoltatori, quando intervistammo Rodolfo De Benedetti, cioè, se si intervista il gruppo L'Espresso va bene, se si intervista il gruppo Caltagirone no, se si intervista il gruppo Rizzoli Corriere della Sera va bene, se si intervista il gruppo Caltagirone no, ma per favore, tutti intervisteremo anche Mediaset, non c'è nessun problema. Stiamo parlando di fatturati purtroppo in calo, utili purtroppo spesso scomparsi, di un settore economico di questo paese che si chiama editoria. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato questa mattina, non peraltro perché adesso presentavano il restyling del Messaggero con Azzurra Caltagirone, ripeto, vicepresidente del gruppo editoriale Caltagirone, nonché della Federazione Nazionale Editori di Giornali. Siamo entrati nel vivo del tema dei conti economici. E allora, senza chiederle un commento sui gruppi concorrenti, Rizzoli, Sole 24 Ore, L'Espresso, Mediaset, però insomma è innegabile che vi sia una difficoltà nei conti economici dovuta, secondo alcuni, non tanto e non solo alla crisi e alla scarsa raccolta pubblicitaria, ma addirittura a un cambiamento strutturale. Ecco, le abbiamo chiesto se e quando, secondo lei, si potrà tornare per i gruppi editoriali a un punto di pareggio, non dico insomma guadagnare e fare grandi utili, ma almeno un punto di pareggio. Se lei mi chiede se ritornerà mai un anno come il 2007, io ritengo che dal punto di vista pubblicitario non sia più... Neanche con i nuovi canali. Io penso che il mondo sia cambiato e non è cambiato solo l'informazione, e quindi dobbiamo pensare di fare informazione con delle strutture diverse, perché quei tipi di quella quantità di ricavi non ritorneranno più, a prescindere dalla divisione, dalle testate e dai mezzi. Da questo punto di vista, però, quando i gruppi editoriali sono in difficoltà, quando un gruppo in generale è in difficoltà, si aprono anche opportunità, nel senso che chi ha tenuto fieno in cascina liquidità può anche compiere delle operazioni di acquisizione o di partecipazione. Voi, per esempio, siete interessati a comprare qualcosa? Non so, ce lo dica, la radio, il sole, così ci prepariamo. No, a parte gli scherzi, vedete anche delle opportunità a questi livelli di prezzo, diciamo così, oppure no, è un'avventura troppo delicata e rischiosa? Allora, diciamo che sarebbe da stolti non valutare tutte le occasioni, però detto questo, oggi siamo concentrati nella seconda fase, diciamo, della rivistazione del gruppo editoriale, quindi proprio quello che avevo accennato in partenza, quindi vogliamo fare un giornale, siamo contemporanei, vogliamo fare un'industria dell'informazione moderna. Questo oggi è, diciamo, il nostro obiettivo principale, poi ovviamente come ogni gruppo valutiamo ogni opportunità. Vediamo l'ultima parte, il rapporto tra stampa e potere. Lei è sia vicepresidente del gruppo Caltagirone, vicepresidente della FIEG e anche la moglie di Pier Ferdinando Casini, non necessariamente in questo ordine di importanza, poi sceglie lei l'ordine di importanza, però... L'ha scelta lei. L'ho scelto io, in ordine diciamo di difficoltà forse, perlomeno è un augurio, ma... il rapporto stampa e potere è un rapporto da sempre delicato. Ora, al di là di qualunque ragionamento, come dicono in francese, da demi-vierge, da mezza vergine, perché in realtà c'è un rapporto, deve esserci un rapporto, anche la stampa e potere, quindi in realtà è un rapporto tra poteri più che tra stampa e potere. Però in Parlamento è in discussione una legge molto delicata che riguarda la responsabilità civile, oltre che penale, dei giornalisti, che ci deve essere, e che però viene vissuta da parte del mondo giornalistico, se non quasi tutto, come una legge in cui la tentazione per la politica può essere una tentazione punitiva. Ora, intanto, un suo giudizio sui mille rivoli e anche i cambi di fronte che questa legge ha subito nell'iter parlamentare. Poi arriviamo invece a quello che deve essere, secondo lei, un rapporto tra stampa e potere. Allora, per quanto riguarda la legge, lo ha detto lei, io posso solo sorridere a quello che ha detto dei vari rivoli e degli aspetti secondari, diciamo, di chi promuove e emenda questa legge. Io ritengo che la legge attuale ci sia e sia anche efficace. Come in mille altre leggi d'Italia, il problema è farla applicare. Il problema di questo paese, cioè una giustizia giusta e breve, cosa che oggi non esiste. Noi sappiamo che una persona che viene, e può capitare perché siamo tutti uomini di mondo, diffamata, nel momento in cui avrà un risarcimento danni mediamente fra i 6 e i 10 anni, anche se la sua vita è cambiata, sto parlando evidentemente di un errore chiaro e molto grave, che non è la normalità di quello che succede. Il secondo discorso fondamentale è che magari abbiamo cambiato la sua vita e spesso ne diamo conto in tre righe. Quindi forse dovremmo pensare come far applicare meglio le leggi attuali che ci sono, esistono, e se applicate con velocità possono tranquillamente mandare avanti il sistema. L'altro aspetto, stampa e potere, lei le pressioni le riceve direttamente in casa o per via formale? Io le pressioni onestamente non le ricevo, anche perché di carattere non sono, non è una cosa facile da fare su di me. Penso che uno sposi una persona per amore, ed è quello che è capitato a me e mio marito. Facciamo due mestieri appassionanti, belli, siamo due persone fortunate perché facciamo ciò che amiamo. Abbiamo due figli meravigliosi e tendiamo a tenere il nostro lavoro fuori di casa, anche perché lui è molto più impegnato di me, ma anche io qualche impegno ce l'ho, e quindi quelle poche ore che sto a casa le dedichiamo ai nostri figli, a parlare del loro futuro, dei loro problemi. Ma per fortuna vostra e dei vostri figli soprattutto. Ma c'è un problema in realtà in questo paese di eccesso di influenza del potere politico nella stampa, o in realtà questo, pur dato per scontato che esiste, perché è un rapporto dialettico tra informazione e potere, è sostanzialmente in linea con quello che avviene nel resto del mondo, cioè non è che negli Stati Uniti non vi sia un rapporto tra la Casa Bianca e il Washington Post. Le do una risposta estremamente onesta su questo. Che la politica provi a inserirsi nei vari rivoli di informazione lo considero naturale. Non lo considero opportuno, ma è naturale. Secondo me negli anni noi abbiamo cambiato il modo di fare giornalismo e purtroppo su questo abbiamo perso molto terreno. Quando io ho visto l'ultimo dibattito, non in questa campagna elettorale ma nella precedente, fra Ségolène Royal e Sarkozy, il presentatore ha chiesto quanto fosse l'energia rinnovabile, l'energia nucleare del paese. Entrambi risposero in modo non corretto. Il giornalista disse: no, mi dispiace, siete entrambi impreparati sull'energia francese, che non è un tema banale per un presidente della Repubblica. Ecco, io queste cose in Italia non le vedo ancora. Quindi forse c'è un problema. Ma c'è più censura nel giornalismo o autocensura? Alla seconda. Più autocensura? Sì. Cioè non c'è nemmeno bisogno che arrivi. Perché devo fare una. È un discorso tipico italiano, scusi. Perché devo fare una cosa in salita se la posso fare in discesa? E secondo lei, le copie si perdono anche per l'autocensura, ossia per questa caratteristica che delle volte alla stampa italiana di correre, come diceva Flaiano, in aiuto ai vincitori? Lei parla sempre di copie, quando in realtà uno dovrebbe fare un discorso di total audience, cioè di quanto quell'informazione veicolata sotto quella testata, quante teste vada a colpire. Sicuramente è un mezzo faticoso la carta stampata, nel senso che non ti arriva a casa, le edicole non sono facilmente raggiungibili, c'è la giornata in cui piove, in ufficio non posso aprire il giornale, o almeno io e lei siamo tra i pochi privilegiati che possono fare questo, e quindi la gente, diciamo, soddisfa il suo bisogno di informazione in altro modo. Quindi per quel che riguarda il discorso delle copie, cercherei di svincolarlo. Sicuramente l'informazione deve essere un pungolo della democrazia e non deve assisterla. Secondo me noi per anni, o forse da sempre, questo ruolo lo abbiamo un po' abdicato. Più per autocensura, cioè per un vantaggio anche diretto e personale del giornalista, sì, o del direttore. Sì, ma anche per costume. Per costume. Per costume, per modo di essere. Questa intervista ad Azzurra Caltagirone, e spero di poter continuare a fare interviste ai presidenti o vicepresidenti di grandi gruppi editoriali, per Silvio Berlusconi, ben venga, poi chi ci mancherà ancora? Rizzoli, L'Espresso, Mondadori, l'abbiamo detto, Berlusconi, poi li avremmo fatti tutti. Intanto auguro buona serata a chi è in ascolto, domani ci risentiamo dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.